Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, 16.33, Luca Tremolada, Nova Lab 24. Siamo più corti, ma siamo più ricchi. Sono qui con Guido Romeo. Ciao, buongiorno a tutti. Che ci ha portato oggi dei cacciatori di bufale, cioè personaggi che insomma stanno a degli hacker fondamentalmente, che smontano le grandi finzioni della scienza e della tecnologia, insomma, e le mostrano al pubblico. Ma prima le news. Era previsto per domani, ma il lancio in Cina di due cellulari basati su Android, sistema operativo di Google, non ci sarà. Lo ha comunicato oggi una portavoce dell'azienda di Mountain View. Continua quindi il braccio di ferro tra Google e la Cina e continuano a emergere nuovi elementi. Google starebbe infatti investigando al suo interno su presunte spie che avrebbero collaborato all'attacco degli hacker cinesi. Tuttavia, non c'è ancora nulla di ufficiale. Cresce l'attesa per il tablet della Apple, che potrebbe essere annunciato il 27 gennaio. Secondo il Wall Street Journal, la casa di Cupertino sarebbe in trattative con alcuni editori per portare libri elettronici avanzati sul suo dispositivo. Secondo il quotidiano, i colloqui coinvolgerebbero l'editore HarperCollins. Passiamo alla scienza. Vendesi Space Shuttle. Equipaggiato per missioni spaziali, aria condizionata, uniproprietario, manutenzione regolare. A 28,8 milioni di dollari, lo Space Shuttle che sarà messo in vendita dalla NASA è praticamente in saldo perché il prezzo di listino doveva essere di 42 milioni. L'Agenzia Spaziale Americana renderà disponibili 3 di questi velivoli nei prossimi mesi, appena avranno completato i loro voli per il completamento della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, rieccoci. Tra l'altro, l'ultimissima cosa che è emersa, non so quanto in relazione, anzi sicuramente non in relazione con Google, è che in Cina Avatar in 2D è vietato, cioè l'hanno tolto dalla distribuzione. Lo dicono perché vogliono tutelare la cinematografia nazionale, ci metteranno Confucio. Domani questa cosa la leggeremo sui giornali e c'è anche un po' su internet, però insomma diciamo che l'affare sta diventando particolarmente curioso e complicato. Ecco. È importante la premessa che non c'entra con Google, perché qua ormai ogni cosa c'entra con Google. Esatto, ed è quello che andiamo a vedere. Noi abbiamo in collegamento Massimo Polidoro. Ci dici chi è Massimo Polidoro? Massimo Polidoro è un uomo dei misteri, un investigatore di tanti fenomeni paranormali, è autore, è uno scienziato e lavora con il CICAP in Italia, che molti conoscono per diciamo la pubblicità che gli ha fatto Piero Angela, ma in questo momento è soprattutto in Florida alla James Randi Foundation. James Randi è uno dei padri dei cacciatori di bufale, e anzi io chiederei subito a Massimo Polidoro di spiegarci, di raccontarci un po' che cosa fa lì. Beh, intanto vi saluto, grazie per avermi invitato. Beh, sono venuto a trovare Randi, che è stato il mio, diciamo pure il mio maestro, insomma. Quando ho iniziato questo lavoro ho avuto la fortuna di poter fargli da assistente, quindi seguirlo in giro per il mondo a caccia di ciarlatani, di bufale, di presunti misteri di vario tipo. Quindi adesso sono andato a trovarlo anche perché aveva avuto qualche problema di salute, e poi anche perché dovevamo vedere insieme le ultime Quindi tu hai lanciato una sfida sostanzialmente al mondo? No, io non ho lanciato nessuna sfida. Randi aveva messo in palio, ed è tuttora in palio, un premio da $1 milione per chiunque possa dimostrare, diciamo in condizioni ovviamente controllate, no? Non basta fare le cose in casa propria e poi raccontarle, bisogna che ci sia un controllo serio, e una qualunque facoltà paranormale. Cioè, se tu mi dimostri che esistono i fantasmi, se tu mi dimostri che esiste il soprannaturale, hai $1 milione. $1 milione. E finora? Finora si sono fatti avanti qualche centinaio di persone, anche in Italia, noi abbiamo fatto tanti test a persone in Italia, ma in genere si tratta di persone che fraintendono o che malinterpretano fenomeni del tutto naturali e che loro non si sanno spiegare, ma che in realtà una spiegazione ce l'hanno, no? I ciarlatani, i truffatori invece stanno alla larga da questo tipo di esperimenti, perché è chiaro che verrebbero smascherati subito. Allora, per far capire un po' di che, perché poi c'è bufala e bufala, ci sono bufale completamente diverse l'una dall'altra, una, non so se ve la ricordate, era quella relativa alle staminali coreane. Sentiamo la scheda. Il medico sudcoreano Wang Woo-suk era una star mondiale grazie al suo lavoro sulle cellule staminali e alla clonazione di diversi mammiferi, tra cui anche il cane Snappy. Wang mirava a moltiplicare l'efficienza della clonazione dei mammiferi, ma anche a sviluppare linee di staminali in grado di diventare veri e propri kit di riparazione per tessuti e organi danneggiati dalle malattie. Nel 2004, di fronte ai risultati sempre più strabilianti e alla confessione di alcuni ricercatori del suo laboratorio, l'Università di Seoul avviò un'inchiesta scoprendo che tutte le 11 linee di cellule staminali create dallo scienziato erano un falso. Condannato per frode e radiato dall'università, oggi Wang è ricercatore presso lo Swam Bioengineering Research Institute a Yeonjin, nella provincia di Gyeonggi. Insomma, nonostante tutto è restato in piedi. Questa è chiaramente una bufala diversa rispetto a quella del paranormale. Qua si tratta di toccare un po' i dati. Questa è una delle bufale, se vuoi, classiche, ricorrenti. È una sulla falsariga, al limite della frode. È stata una frode. In realtà Wang è uno che con le cellule ci sapeva fare. Il cane Snoopy l'ha clonato davvero e poi, come dire, si è fatto un po' prendere al gioco e in maniera molto pericolosa. Tra l'altro non ci sono qua contro, cioè qui non c'è un Massimo Polidori della situazione o un Paolo Attivissimo che andremo subito a sentire subito dopo da mettere in campo, che possono mettersi lì a capire. Non ci sono delle contromisure. Le contromisure sono gli scienziati stessi e forse, anzi, viene da dire, ci voleva un Attivissimo, un Polidori in questo caso, ma nessuno tra gli scienziati e i colleghi ebbe al tempo il coraggio, con la voglia di puntare il dito e dire quello che stai facendo. Ecco, tra l'altro, Paolo Attivissimo, che ci sta ascoltando, è uno delle autorità nel campo, cioè ha un sito, è super ascoltato. Ha il suo metodo antibufale, che tra l'altro è open source. Anzi, Paolo, spiegacelo il metodo antibufale, così iniziamo subito a mettere le mani in pasta, diciamo. Volentieri, buongiorno e saluto anche Massimo, siamo colleghi di lunghissima data. Il metodo antibufala è molto semplice, si tratta di non dare nulla per scontato, di verificare tutte le fonti, di controllare attraverso verifiche incrociate che cosa sta in piedi e che cosa no, e soprattutto usare un criterio principale, che è quello di valutare se una notizia è particolarmente straordinaria, allora abbiamo bisogno di prove altrettanto forti e straordinarie. Questo purtroppo è una cosa che molti colleghi non fanno, ci si fa trascinare dall'emozione, dalla voglia di scoop, magari dall'ansia di prestazione, come è successo per il caso che avete raccontato. Lo scienziato in sé era bravo, competente, ma a un certo punto la spinta a produrre sempre risultati eclatanti gli ha fatto compiere questa vera e propria frode. E come avete giustamente detto, non c'è in questo caso bisogno né di me né di Massimo, perché è la comunità scientifica che fa controlli incrociati sulle pubblicazioni dei colleghi. Ecco, un altro esempio in questo senso è la famosa memoria dell'acqua, tu ti ricordi? Oh, sì, questo è un classico, è uno dei fondamenti teorici dell'omeopatia, secondo la quale l'acqua sarebbe in grado di preservare memoria di quello che le è passato attraverso e quindi potrebbe essere utilizzata come principio appunto per giustificare la presunta funzionalità dei farmaci. Ecco, Attivissimo, sentiamo la storia nella scheda di Guido Romeo. Nel 1988 Jacques Benveniste, giovane e brillante ricercatore dell'Inserm di Parigi, con più di 200 pubblicazioni all'attivo, firma su Nature un articolo rivoluzionario. Afferma di avere le prove sperimentali di una memoria dell'acqua. Il liquido manterrebbe le proprietà delle molecole di un farmaco che vi è disciolto anche dopo diluizioni superiori al limite di Avogadro, oltre il quale un elemento non è più considerato presente in un campione. L'eccitazione è grande, perché sarebbe la prova scientifica dell'omeopatia e aprirebbe la strada a una nuova farmacologia. Ma quando gli esperimenti di laboratorio furono ripetuti in doppio cieco, alla presenza di John Maddox, l'allora direttore di Nature, e dei debunkers James Randi e Walter Stewart, non emerse nessuna prova della memoria. Una delle assistenti di Benveniste, infine, confessò di aver manipolato i dati per far piacere al suo mentore. Ecco, ma queste bufale qua quindi si risolvono con la comunità scientifica. Quali che sono quelle più complicate da sbrogliare? Chiedo a Paolo Attivissimo. sicuramente quelli che hanno un alto contenuto tecnologico, e in questo caso è necessario ricorrere agli esperti, che è un altro degli ingredienti del metodo antibufala. Sempre appoggiarsi a persone di provata competenza nel settore, anche perché di solito le tesi alternative vengono sostenute da persone che di competenza in realtà non ne hanno. Tipo i giornalisti in certi casi, perché poi siamo noi il peggior megafono di questi fenomeni. A volte sì, purtroppo, ma si può con l'aiuto. È importante formare un team di consulenti e di esperti a disposizione che possono essere interpellati per capire subito se una domanda, se un'affermazione sta in piedi o no, e poi lì si possono approfondire i dettagli. Sì, Guido. Ma sì, non voglio fare la difesa della categoria, per carità, lungi da me, però come dire, certe volte ci vogliono anche i giornalisti o comunque gli investigatori che non fanno parte della comunità scientifica, perché la comunità scientifica, sappiamo come funziona, ha un sistema di revisione basato sostanzialmente sulla fiducia, cioè io credo nella tua onestà almeno al primo giro, e questo spesso porta a grandi problemi, come abbiamo visto sia con le staminali sia con Benvenisca, all'inizio fu acclamato. Ma per esempio il grande affair dei vaccini, contro il vaccino trivalente contro orecchione morbillo e rosolia, che doveva causare autismo, è stato sgonfiato da un giornalista, da Brian Deer, un giornalista del Sunday Times. Vabbè, quindi non facciamo generalizzazioni. Ci vuole qualcuno che ci metta il naso e, come dicono gli americani, abbia un naso molto duro. Ecco. Lasciamo perdere. Nova Lab 24. Allora, bentornati, 16:47. Torniamo con Massimo Polidoro, a cui volevo chiedere adesso su che cosa tu ti occupi di paranormale, sostanzialmente. Ecco, adesso su che cosa stai lavorando? Qual è, insomma, la bufala o la presunta bufala, dovremmo dire? Ma in realtà sono tante le cose che stiamo seguendo come CICAP e io personalmente. Ormai il campo di azione si è allargato enormemente, nel senso che all'inizio, quando il CICAP è nato 20 anni fa, era il paranormale, infatti il nome è Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale ancora oggi, ma col passare del tempo poi abbiamo iniziato a occuparci anche di pseudoscienza pura, no? Che anche l'acqua con la memoria di cui parlavamo prima è uno degli argomenti. Ecco, ma com'è che funziona? Cioè, io singolo cittadino, questo per dare un'informazione agli ascoltatori, Cioè che faccio? Chi devo chiamare? A chi mi devo rivolgere? Ho visto qualcosa di strano in casa, ho sentito un rumore che non mi convince, uno scricchiolio. Allora, di questo tipo di segnalazioni ne riceviamo veramente decine ogni settimana, e allora in questo caso, e li riceviamo, per riceverle basta scriverci o una mail o una lettera, insomma, il sito del CICAP è www.cicap.org, per chi ha internet, e per chi non ce l'ha ci può telefonare allo 049 68 68 70, siamo a Padova, la sede ufficiale è a Padova. Quindi noi riceviamo tantissime di queste segnalazioni e la prima cosa che chiediamo è di approfondire un attimo, di spiegarci meglio che cosa succede, in quali condizioni, quando, perché, se ci sono solo e poi partite come Ghostbuster, cioè all'incontrario, diciamo, che ci sembra interessante da approfondire, allora magari ci organizziamo e andiamo a vedere che cosa succede. Altre volte invece siamo noi che leggiamo qualche notizia o sentiamo parlare di qualche fenomeno strano che sembra così uscire un po' dai canoni, e magari c'è qualche elemento o che ci insospettisce o che magari ci ricorda qualcosa che è già successo e vogliamo vederci più chiaro. Ecco, sentiamo l'ultima bufala che ci ha selezionato Guido Romeo. Apparsi nell'arco di una notte negli anni 70 in alcuni campi dell'Inghilterra meridionale, i cerchi nel grano hanno fatto la felicità di ufologi, giornalisti alla ricerca di titoli forti e documentaristi dell'improbabile. Tra le spiegazioni proposte, oltre agli alieni, c'erano vortici d'aria simili ai tornado ma estremamente localizzati, flussi di plasma solare in grado di penetrare l'atmosfera e una variazione delle linee del geomagnetismo terrestre, ma anche esperimenti militari segreti e tossine rilasciate dal terreno. Nel 1991 due inglesi di Southampton, Doug Bauer e Dave Charles, confessarono che l'idea di disegnare i bizzarri motivi nei campi era nata come uno scherzo da pub e mostrarono alla stampa come li fabbricavano con corde e tavole. Ma ancora oggi la leggenda resiste ed è al centro di trasmissioni TV e dibattiti online. Ecco, prima Polidoro, poi Attivissimo. Cioè, in questo caso qui com'è che si affronta un tema di questo tipo? Beh, quello dei cerchi nel grano è veramente uno dei grossi temi degli ultimi anni e noi abbiamo proprio una sezione che si occupa solo di questo. Noi siamo arrivati al punto da andare sul posto degli inglesi che lo fanno abitualmente tutte le estati, diciamo quando c'è il grano maturo, e imparare da loro, capire come fanno, e ormai anche noi in tutte le estati arriviamo a preparare dei disegni del vari campi di grano anche in Italia, senza dire magari che siamo stati noi a farli, no? Proprio per vedere il tipo di reazione che hanno da un lato gli appassionati di queste cose, dall'altro la stampa, eccetera. E generalmente i commenti che si leggono sono proprio questi: è impossibile che qualcuno riesca a fare un disegno del genere in un campo di grano, in una notte, ci servirebbero macchinari complicatissimi. Invece no, è proprio una forma d'arte, almeno così la interpretano molti di quelli che la fanno, come può essere quella dei graffiti, dove non c'è una firma, o meglio non sempre c'è una firma, non c'è una persona riconoscibile, ma lo fanno per vari motivi, insomma, ed è una cosa umanamente fattibile. Ecco, no, una domanda da un SMS, la parola giro subito attivissimi: globi di energia esistono? Io non so cosa siano i globi di energia, tu Guido? Se parliamo di fenomeni come i fulmini globulari, questi sono effettivamente piuttosto ben documentati. Se invece pensiamo a quei globi strani che si vedono nelle fotografie scattate con il flash, allora quello è un fenomeno che esiste realmente, ma non si tratta di anime dei defunti o cose di questo genere, è semplicemente un effetto ottico, è la polvere molto fine sospesa nell'aria che con le moderne macchine fotografiche digitali diventa più facilmente visibile quando viene illuminata fuori fuoco dal flash. Una risposta di pochissimi secondi: la fusione nucleare a freddo. Questo però è un tema più tecnologico. Quello è un grande tema. È quella di Fleischmann e Pons, che fu avanzata, ma poi mai completamente dimostrata. Ci stanno lavorando, però. E non si sa dove siano Fleischmann e Pons. Quella è una grande avventura. Quello è il tema. Allora, ringrazio Massimo Polidoro e Paolo Attivissimo. Noi siamo in chiusura. Torniamo domani alle 16:30. Mi raccomando, le 16:30.